I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Ieri, mentre tutta l'attenzione giustamente si concentrava sui dati positivi, questa volta per davvero, sia sulla disoccupazione in calo che sull'occupazione in crescita, sono arrivate altre due notizie confortanti. La prima riguarda il rapporto dell'OCSE, dove l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha confermato la crescita per quest'anno dell'Italia allo 0,6%, e confermato anche una crescita più robusta nel 2016 dell'1,5%, aggiungendo che la disoccupazione in Italia inizierà a calare in maniera stabile e significativa solo però dal 2016. L'altra buona notizia riguarda Mario Draghi, perché la Banca Centrale Europea ieri, nel mantenere i tassi invariati allo 0,05%, ha anche precisato che continuerà a acquistare titoli di Stato e quindi il famoso quantitative easing fino al settembre del 2016 e che, se necessario, potrebbe anche aumentare gli acquisti, garantendo comunque liquidità al sistema economico e soprattutto a quello finanziario. Due ulteriori buone notizie quindi che migliorano lo scenario di contesto in cui si trova a giocare l'economia italiana. Che cosa potrebbe andare storto? Beh, al di là della Grecia, e vedremo se le incognite verranno finalmente superate, quello che potrebbe andare storto è un eccesso di ottimismo nel nostro paese, ossia il pensare che siccome c'è un po' di ripresa ci si può arrestare nel percorso di riforme e di sforzi compiuti fino adesso. Sarebbe un errore gravissimo, perché le condizioni esterne sono le migliori possibili, ma come sappiamo, dopo anni di condizioni favorevoli o di vacche grasse, arrivano anni di condizioni meno favorevoli, per non dire di vacche magre. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. E ci risiamo, è pronta a scoppiare un'altra bomba giudiziaria sui conti dello Stato. Il 23 giugno la Corte Costituzionale deciderà sul ricorso di quanti hanno contestato il blocco della contrattazione del pubblico impiego dal 2010 al 2015. Bene, l'avvocatura ha comunicato oggi ai giudici della Consulta che in caso di accoglimento di quel ricorso per lo Stato si aprirebbe una voragine da 35 miliardi nel bilancio pubblico, qualcosa come 13 miliardi l'anno a partire dal 2016. Sarebbe la seconda devastante pronuncia da parte della Corte Costituzionale dopo quella sulla rivalutazione delle pensioni che ha riscritto il blocco voluto con la legge Fornero e che costerà all'erario una dozzina di miliardi di arretrati. Può anche darsi che, capita l'antifona della volta precedente, l'avvocatura abbia un po' gonfiato le cifre, ma certo il problema rimane. In gioco ancora una volta ci sono i presunti diritti acquisiti di una categoria contro i diritti di tutti rappresentati dalla tenuta del bilancio pubblico. Va detto che il blocco della contrattazione nazionale nel pubblico impiego è stato in parte aggirato con le trattative sindacali di secondo livello, quelle per definire i premi di risultato, ed è noto anche che in questa sede il datore del lavoro, governo e i sindacati raggiungono intese piuttosto generose, ugualitarie, con buona pace del merito e della produttività. Anzi, diciamolo chiaramente, la produttività nel pubblico impiego è da sempre una finzione giuridica. L'Italia comunque ha deciso di mettere nella Costituzione l'obbligo del pareggio di bilancio e i giudici della Consulta dovranno tenerne conto, e non poco. Forse, finalmente, è necessario passare dall'Italia dei diritti acquisiti, che sono spesso sinonimo di prebende dovute ai codicilli, a un'Italia più moderna ed europea del buon senso delle compatibilità economiche. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.